Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Io vidi, indovinai. Ero dietro i vetri da tanto tempo. Non sapevo risolvermi ad andarmene. Tutto quel bianco mi attirava. Vidi la carrozza passare lentamente nella neve. Sentii che eravate voi prima di vedervi gittare le rose. Nessuna parola mai potrà dirvi la tenerezza delle mie lacrime. Piansi per voi d'amore e piansi per le rose di pietà, povere rose. Mi pareva, non so, che mi chiamassero, che si lamentassero, come creature abbandonate. Quando la vostra carrozza si allontanò, io mi affacciai per guardarle. Fui sul punto di scendere giù nella strada a prenderle. Ma qualcuno era ancora fuori di casa e il domestico era di là nell'anticamera che aspettava. Pensai mille modi, ma non riuscii a trovarne uno attuabile. Mi disperai. Sorridete. Proprio io non so che follia mi prese. Stavo tutta attenta a spiare i passanti, con gli occhi pieni di lacrime. Se avessero calpestato le rose, mi avrebbero calpestato il cuore. Ed ero felice in quel supplizio. Ero felice del vostro amore, del vostro atto delicato e appassionato, della vostra gentilezza, della vostra bontà. Ero triste e felice quando mi addormentai. E le rose dovevano essere già moribonde. Dopo qualche ora di sonno mi svegliò il rumore delle pale sul lastrico. Spazzavano la neve proprio dinanzi alla nostra porta. Io rimasi in ascolto e il rumore e le voci continuarono fin oltre l'alba e mi facevano tanta malinconia. Povere rose, ma saranno ancora vive nella mia memoria. Certi ricordi bastano a profumare un'anima per sempre. Mi amate molto, Andrea. E dopo un'esitazione, Maria continuò. Amate me sola. Avete dimenticato il resto interamente. Sono miei tutti i vostri pensieri. Ella palpitava e tremava. Io soffro della vostra vita anteriore, di quella che io non conosco. Soffro dei vostri ricordi, di tutte le tracce che forse vi rimangono ancora nello spirito, di tutto ciò che in voi non potrò mai comprendere e mai possedere. Oh, se io potessi darvi l'oblio d'ogni cosa. Io vi amo ogni giorno di più, ogni giorno di più. Andrea la inebriò di parole soavi e profonde. La vinse d'ardore. Gli pareva che ella fosse prossima ad abbandonarsi. Vedeva gli occhi di lei nuotare in qualche onda di languore più lunga. Vedeva sulla bocca dolente apparire quella inesprimibile contrattura che è come la dissimulazione di una tendenza fisica istintiva al bacio. E vedeva le mani, quelle mani gracili e forti, mani d'arcangelo, fremere come le corde d'uno strumento, esprimere tutto l'orgasmo interno. Se oggi potrò rapirle anche un solo bacio fuggevole, pensava, avrò di molto affrettato il termine che io sospiro. Ma ella, consapevole del pericolo, si levò d'improvviso, chiedendo licenza. Suonò il campanello, ordinò al domestico il tè e che pregasse Miss Dorothy di condurre Delfina nel salone. Poi, volgendosi ad Andrea, un po' convulsa, «È meglio così, perdonatemi». E da quel giorno evitò di riceverlo in giorni che non fossero, come il martedì e il sabato, di ricevimento comune. Ella, però, si lasciò guidare da lui in varie peregrinazioni, nelle ville, nelle gallerie, nelle chiese, nelle ruine. Dov'era passata Elena Muti, passò Maria Ferres. Non di rado le cose suggerivano al poeta le medesime effusioni di parole che Elena aveva già udite. Non di rado un ricordo lo allontanava dalla realtà presente, lo turbava d'improvviso. «A che pensate ora?» gli chiedeva Maria guardandolo in fondo alle pupille, con un'ombra di sospetto. Ed egli rispondeva «A voi, sempre a voi. Mi prende come una curiosità di guardarmi dentro, per vedere se ancora mi rimanga qualche minima parte dell'anima che non sia in possesso dell'anima vostra. Non mai penso Una creatura umana è stata più intimamente posseduta da una creatura umana in spirito. Se la mia bocca si congiungesse alla vostra, avverrebbe la trasfusione della mia vita nella vostra vita. Penso che morirei. Un giorno erano sul belvedere della Villa Medici. Guardavano l'oro del sole morire a poco e la Villa Borghese, ancora nuda, sommergersi a poco in un vapore violaceo. Maria disse, invasa da una subitanea tristezza: «Chissà quante volte siete venuto qui a sentirvi amare». Andrea rispose con l'accento di un uomo trasognato: «Non so, non ricordo. Che dite mai?» Ella tacque, poi si levò per leggere le iscrizioni sui pilastri del tempietto. Erano per lo più iscrizioni d'amanti, di novelli sposi, di contemplatori solitari. D'un tratto Maria si volse ad Andrea dicendo: «Ci siete anche voi?» Egli rispose guardandola con l'accento medesimo di dianzi: «Non so, non ricordo. Non ricordo più nulla. Vi amo». Ella lesse, ed era scritto di mano d'Andrea un epigramma del Goethe, un distico. Quello che incomincia: «Rispondi, come vivi tu?» «Io vivo. E seppur 100 e 100 secoli mi fosser dati, io m'augurerei soltanto che domani fosse come oggi». Sotto era una data: «Die ultima februari 1885. E un nome: Elena Amiclea. Ella disse: «Andiamo». Egli chiese: «Volete appoggiarvi?» Ella rispose: «No, grazie». Discesero in silenzio, pianamente. Ad ambedue pesava il cuore. Dopo un intervallo ella disse: «Eravate felice 2 anni fa? Ed egli, con un'ostinazione meditata: «Non so, non ricordo». Il bosco era misterioso in un crepuscolo verde. I tronchi ed i rami sorgevano con intrichi e viluppi serpentini. Qualche foglia luccicava come un occhio di smeraldo nell'ombra. Dopo un intervallo ella soggiunse: «Chi era quella Elena?» «Non so, non ricordo. Non ricordo più nulla, vi amo. Amo voi sola, penso per voi sola. Vivo per voi sola, non so più nulla, non ricordo più nulla. Non desidero più nulla, oltre il vostro amore. Io vi amo e voi mi amate. Questo dura da secoli, durerà nei secoli, per sempre. Accanto a voi, pensando a voi, vivendo di voi, ho il sentimento dell'infinito, il sentimento dell'eterno. Io vi amo e voi mi amate, non so altro, non ricordo altro». Ella ascoltava diritta, innanzi ai balaustri dell'ampia terrazza che si apre sul limitare del bosco. «Ed è vero? Ed è vero?» ripeteva ella con una voce spenta, che era come l'eco affievolita d'un grido dell'anima interna. «Ed è vero?» «È vero, Maria. E questo soltanto è vero. Tutto il resto è un sogno. Io vi amo, e voi mi amate, e voi mi possedete come io vi posseggo. Io vi so così profondamente mia, che non vi chiedo carezze, non vi chiedo alcuna prova d'amore. Aspetto. Mi è caro, sopra ogni cosa, obbedirvi. Io non vi chiedo carezze, ma le sento nella vostra voce, nel vostro sguardo, nelle vostre attitudini, nei vostri minimi gesti. Tutto ciò che parte da voi è per me inebriante come un bacio, ed io non so, sfiorandovi la mano, se sia più forte la voluttà dei miei sensi o la sollevazione del mio spirito». Andrea posò la sua mano sulla mano di lei, lievemente. Ella tremò, sedotta, provando un desiderio folle di piegarsi verso di lui, di offrirgli infine le labbra, il bacio, tutta se stessa. Le parve che per tale atto ella lo avrebbe legato a sé, con l'ultimo nodo, con un nodo indissolubile. Ella credeva di venir meno, distruggersi, di morire. Era come se tutti i tumulti della passione già sofferta le gonfiassero il cuore, aumentassero il tumulto della passione presente, Era come se rivivessero in quell'attimo tutte le commozioni trascorse da che ella aveva conosciuto quell'uomo. Le rose di Schifanoia rifiorivano tra i lauri della Villa Medici. «Mi sembra», disse la senese socchiudendo i cigli, «di trovarmi su una terrazza di Schifanoia, lontana, lontana da Roma, sola, con te. Chiudo gli occhi, veggo il mare». Ella vedeva dal suo amore, dal silenzio, nascere un gran sogno e dilatarsi nel tramonto. Ella tacque sotto lo sguardo di Andrea e un poco sorrise. Ella aveva detto «con te». Pronunziando quelle due sillabe, ella aveva chiuso gli occhi e la bocca era parsa più luminosa. «Mi sembra che tutte queste cose non siano fuori di me, ma che tu le abbia create nell'anima mia, per la mia gioia. Ho questa illusione in me, profonda, ogni volta che io sono innanzi a uno spettacolo di bellezza, e che tu mi sei vicino». Ella parlava lentamente, come se la sua voce fosse l'eco tarda di un'altra voce, inaudibile. Perciò le sue parole avevano un singolare accento, acquistavano un suono misterioso, parevano venire dalle più segrete profondità dell'essere. Un tremito prese Andrea quando egli era per rivolgerle il tu mistico. Tu ti levi sopra tutte le mie idealità. Tu splendi sopra tutti gli splendori del mio pensiero. Tu mi illumini di una luce che è quasi per me insostenibile. Ella stava dritta dinanzi ai balaustri, con le mani posate sulla pietra, con la testa alzata, più pallida di quando nella mattina memorabile camminava sotto i fiori. Era nel cielo una pioggia di rose. Rose, rose, rose, piovevano dappertutto, lente, spesse, molli, a somiglianza di una nevata in un'aurora. La Villa Medici, eternamente verde e senza fiori, riceveva sulle cime delle sue rigide mura arboree i molli petali innumerevoli caduti dai giardini celesti. Ella si volse per discendere. Andrea la seguì. Camminarono in silenzio verso la scala. Guardarono il bosco che si stendeva fra la terrazza e il belvedere. Pareva che il chiarore si fermasse sul limite dove sorgono le due erme custodi e non potesse rompere la tenebra. Pareva che quegli alberi rameggiassero in un'altra atmosfera o in un'acqua cupa, in un fondo marino, simile a vegetazioni oceaniche. Ella fu invasa da una subita paura, si affrettò verso la scala, discese 5 o 6 gradini, si arrestò, smarrita, palpitante, udendo nel silenzio il battito delle sue arterie dilatarsi come uno strepito enorme. La villa era scomparsa, la scala era serrata fra due pareti, umida, grigia, rotta dall'erbe, triste, come quella di una carcere sotterranea. Ella vide Andrea piegarsi verso di lei, con un atto improvviso, per baciarla in bocca. «No, no, Andrea, no!» Egli tendeva le mani per trattenerla, per costringerla. «No!» Perdutamente, ella gli prese una mano, se la trasse alle labbra, la baciò 2, 3 volte perdutamente. Poi si mise a correre giù per la scala verso la porta come folle. «Maria, Maria, fermatevi!» Si ritrovarono l'una di fronte all'altro innanzi alla porta chiusa, pallidi, ansanti, scossi da un terribile tremito, guardandosi negli occhi mutati, avendo negli orecchi il rombo del loro sangue, credendo di soffocare. E nel tempo medesimo, con un impeto concorde, si strinsero, si baciarono. E la disse, temendo di venir meno, appoggiandosi alla porta, con un gesto di suprema preghiera, «Non più, io muoio». Rimasero un minuto l'una di fronte all'altro, senza toccarsi. Pareva che tutto il silenzio della villa gravasse su loro, in quel luogo angusto, cinto da alti muri, simile a una tomba scoperta. Si udiva distinto il gracchiare basso e interrotto dei corvi che si raccoglievano sui tetti del palazzo o traversavano il cielo. Di nuovo un senso strano di paura occupò il cuore della donna Ella gittò in alto alla sommità dei muri uno sguardo sbigottito. Facendosi forza disse: «Ora possiamo uscire. Potete aprire». E la sua mano si incontrò con quella di Andrea sul saliscendi, nella furia incalzante. E come ella passò rasente le due colonne di granito sotto il gelsomino senza fiori, Andrea disse: «Guarda, il gelsomino fiorisce». Ella non si volse, ma sorrise. E il sorriso era assai triste, pieno dell'ombre che metteva in quell'anima il riapparir subitaneo del nome inscritto sul belvedere. E mentre ella camminava per il viale misterioso, sentendo tutto il suo sangue alterato dal bacio, un'implacabile angoscia le incideva nel cuore. Quel nome, quel nome. Il marchese di Mount Edgecumbe, aprendo il grande armadio segreto, la biblioteca arcana, porse allo Sperelli il libro raro. Era intitolato Gervezii de Concubitu Libri Tres, ornato di vignette voluttuose. «Questa figura è molto importante», soggiunse indicando col dito una delle vignette che rappresentava un congiungimento di corpi indescrivibile. «È una cosa nuova che io non conoscevo ancora. Nessuno dei miei scrittori erotici ne fa menzione». Seguitava a parlare, discutendo alcune particolarità, seguendo le linee del disegno con quel dito bianchiccio, sparso di peli sulla prima falange e terminato da un'unghia acuta, lucida, un po' livida, come l'unghia dei quadrumani. Le sue parole penetravano nell'orecchio dello Sperelli. «Questa edizione olandese di Petronio è magnifica. Eccone un'edizione del 1763. La raccolta era ricchissima. Comprendeva tutta la letteratura pantagruelica e rococò di Francia, le priapee, le fantasie escatologiche, le monacologie, gli elogi burleschi, i catechismi, gli idilli, i romanzi, i poemi dalla Pipe Cassée del Vadet alle Liaisons Dangereuses. Comprendeva quanto di più raffinato e di più infame l'ingegno umano ha prodotto nei secoli». Il collezionista prendeva i libri dalle file dell'armadio e li mostrava al giovine amico, parlando di continuo. Le sue mani oscene si facevano carezzevoli intorno ai libri osceni, rilegati in cuoi ed in tessuti di pregio. Ad ogni tratto sorrideva sottilmente e gli passava negli occhi grigi il baleno della follia, sotto la enorme fronte convessa. «Posseggo anche la edizione principe degli epigrammi di Marziale, quella di Venezia, fatta da Vindalino di Spira in folio. Eccola, ed ecco il Bo, il traduttore di Marziale, il commentatore delle famose 382 oscenità». Lo Sperelli ascoltava e guardava, con una specie di stupore che a poco andavasi mutando in orrore e in dolore. I suoi occhi ad ogni momento erano attirati da un ritratto d'Elena che pendeva alla parete sul damasco rosso. Il collezionista s'accendeva e gli uscì per andare a prendere l'albo dei disegni di Francis Redgrave nella stanza contigua. Il suo passo era un po' saltellante e malsicuro, come d'un uomo che abbia in sé un principio di paralisi, una malattia spinale incipiente. Il suo busto rimaneva rigido, non assecondando il moto delle gambe, simile al busto di un automa. Andrea, rimasto solo, fu preso da una terribile angoscia. La stanza, tappezzata di damasco rosso cupo, come la stanza dove Elena 2 anni innanzi era sedata a lui, gli parve allora tragica e lugubre. Forse quelle erano le tappezzerie medesime che avevano udito le parole di Elena: «Mi piaci». L'armadio aperto lasciava vedere le file dei libri osceni, le rilegature bizzarre, impresse di simboli fallici. Alla parete pendeva il ritratto di Lady Hitfield accanto a una copia dell'Anelli O'Brien di Joshua Reynolds. Ambedue le creature dal fondo della tela guardavano, con la stessa intensità penetrante, con lo stesso ardor di passione, con la stessa fiamma di desiderio sensuale, con la stessa prodigiosa eloquenza. Ambedue avevano la bocca ambigua, enigmatica, sibillina, la bocca delle infaticabili ed inesorabili bevitrici d'anime, e avevano ambedue la fronte marmorea, immacolata, lucente di una perpetua purità. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.